Buonasera a tutti e a tutti, 18 e 28, ben sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa, dopo alcuni mesi di assenza, è nuovamente Profondo Rosa, trasmissione di cultura LGBTQI, almeno ci si prova. Ci siamo decisi che è di cultura e quindi insomma un sacco di novità per questo ritorno, siamo puntuali, ci siamo decisi che è di cultura e abbiamo anche preparato un nuovo ciclo. Ebbene dai, che vuoi di più? Comunque riprenderemo insomma da questo giovedì per i prossimi, sempre intorno alle 18.30 circa sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo come al solito un po' di contatti, il sito internet www.ondarossa.info per quanto riguarda la nostra trasmissione, il blog che è profondorosa.noblogs.org, insomma chiaramente quest'anno ci siamo ancora non siamo riusciti a fare granché, quindi troverete lì sopra soprattutto un po' di repliche di trasmissioni degli scorsi anni. E comunque se volete mandarci una mail, scriverci, entrare in contatto con noi, l'indirizzo mail è profondorosa@ondarossa.info. Direi che è tutto. Okay. Anzi no, non è tutto. Non è se tutto. Volete parlare subito con noi, potete certo. Chiamare lo 06 49 17 50. E allora, come preannunciavi, nuovo ciclo di trasmissioni, stavolta insomma ci proviamo a, se non altro, a proseguire nell'arco delle prossime settimane su questo filone, su questa scia. Pensiamo così di addentrarci in quello che è il mondo della produzione, quindi del rapporto fra lavoro e soggettività LGBTQI, qualche cosa che insomma non ha granché background alle spalle, insomma ci stiamo un po' barcamenando qua e là cercando di trovare insomma qualcuno o qualcuna che abbia provato insomma così, se non altro, ad analizzare, a studiare questo tipo di dinamiche. Di sicuro quindi insomma sarà un lavoro abbastanza così in divenire nell'arco delle trasmissioni, cercando insomma di mettere almeno un pochino di punti chiave qua e là nell'arco delle prossime settimane. Così oggi partiamo in particolare da uno scritto di un compagno del Circolo Moris di Torino, che andremo fra l'altro a chiamare fra pochissimi secondi, che appunto intervenirà in diretta con noi. Questo articolo si chiama Lavoro, affetti, flexiquirity per la critica dell'economia politica degli affetti queer. Insomma, tanta roba sembra anche complicato, ma insomma proveremo un po' a scioglierlo. Appunto è un argomento non, insomma, su cui non c'è una letteratura sterminata, no. Non è neanche una novità assoluta, insomma per i nostri movimenti ci sono stati momenti, incontri, assemblee, convegni in cui un po' di questo si è discusso, e quindi andremo anche a incontrare compagni, compagne con cui negli anni un po' è stato affrontato questo argomento, ma ovviamente anche cercando di andare un po' oltre, perché come dire, il capitalismo è molto veloce nei tempi a volte. E a volte noi siamo un po' lentine a stare dietro, se non altro insomma gli stravolgimenti e i cambiamenti che repentinamente avvengono sotto i nostri occhi e soprattutto avvengono sulla nostra pelle e sulle nostre vite. E quindi vi lascio a 30 secondi di stacco musicale, dopo il quale rientriamo in diretta, e rientriamo fra l'altro con un brano che è proprio l'incipit di questo articolo di Christian, questo compagno del Circolo Moris di Torino che ha redatto questo articolo. E quindi ecco il tempo di così approntare il collegamento e ritorniamo in diretta. Fancy, Parti la mattina con tutto ciò che possiedi in una piccola valigia nera, da solo su una banchina, il vento e la pioggia su una faccia triste e solitaria. Tua madre non capirà mai perché sei dovuto partire, ma le risposte che cerchi non saranno mai trovate a casa. L'amore di cui hai bisogno non sarà mai trovato a casa. Vattene, scappa, vattene. Questo è il testo di Small Town Boy dei Broski B, che penso un po' tutte e tutti noi, tutte e tutti all'ascolto, avranno danzato numerose volte, ma che insomma fa un po' da incipit a questa trasmissione, a questo articolo di cui vi parliamo con Christian, che lo ha redatto e che è intitolato appunto Lavoro Affletti Flexiquirity, per la critica dell'economia politica degli affetti queer. Non è un caso, insomma, che partiamo con una canzone molto nota, ma forse molto poco conosciuta dal punto di vista del testo, penso almeno alle più. E in realtà partiamo da qui proprio perché in qualche modo quello che ci viene raccontato da questa canzone è uno dei classici casi in cui si fa fagotto e si scappa di casa, si va via dalla propria insomma cittadina di nascita, perché insomma bisogna fuggire, l'unica cosa che si può fare è andarsene. Anche se noi adolescenti degli anni Ottanta, anche se non capivamo benissimo l'inglese, c'era il video sì, che MTV trasmetteva chiaro. Di continuo, che insomma era proprio la descrizione drammatica di questo testo. E vogliamo insomma un po' partire da qui, da questa immagine, da questo racconto per immagine e per musica, che ci parla insomma di qualcuno che appunto viene sradicato dalle proprie origini, dal proprio paese di nascita, per andare da qualche altra parte, e che facendo questo, che è un po' uno dei classici di varie situazioni, però in questo caso chiaramente parliamo di un ragazzo gay che va via di casa. Dicevo, è un classico di tante situazioni in cui bisogna poi in qualche modo riprendere in mano la propria vita da qualche altra parte. Chiaramente che cosa, una delle prime cose che bisogna fare è cercare lavoro, e in questo tipo di situazione di solito chi cerca lavoro è quello che un po' Marx chiamava il lavoratore libero, ovvero il lavoratore così che è vive nell'anonimato, non ha un particolare stile di vita, si ritrova veramente sradicato un po' da tutte e a tutti. Intanto ci sei? Sì, ci senti? Sì, vi ascolto. Ok, buonasera, ciao. Bene, ti sentiamo pure noi bene. E allora così, dai, palla a te un po', raccontaci pure perché sei voluto partire da qua e insomma da questo punto d'inizio che ci sembra comunque molto molto azzeccato. Beh, innanzitutto perché penso che anche quando uno vuole fare un lavoro analitico, diciamo così, tecnico o freddo, debba in ogni caso partire da una dimensione di posizionamento anche soggettivo, individuale. Chiaramente una canzone come questa è una rappresentazione, no? Cioè, i testi che hanno fatto il nostro percorso individuale, il nostro vissuto anche sentimentale, i film, i libri che abbiamo letto e che leggiamo anche per costruirci come persona, sono delle rappresentazioni mediate dalla soggettività. Però secondo me è essenziale partire da queste, perché la dimensione affettiva che è coinvolta in questo lavoro di analisi che noi stiamo cercando di fare, non sono l'unico, sulla dimensione incrociata con la dimensione lavorativa, non può essere, come dire, vittima di una separazione troppo facile fra tecnica, analisi, quindi una critica dell'economia politica vista in maniera asettica, e dimensione invece del nostro vissuto, della nostra vulnerabilità e delle nostre esperienze soggettive. Chiaramente non tutti gli omosessuali e non tutte le lesbiche e non tutte le persone trans hanno vissuto la stessa esperienza del ragazzo raccontato dalla canzone dei Bronski Beat. Magari uno potrebbe anche dire che dagli anni 80 a oggi tante persone omosessuali, transessuali, vivono la loro liberazione in maniera meno drammatica, meno patetica, se vogliamo dire così. Però a me interessava questo punto di vista perché innanzitutto ha segnato me, no? Ha segnato forse ancora la mia generazione, o comunque io anche sono ero un ragazzo di una piccola città che lasciava il proprio mondo anche perché voleva vivere la propria sessualità in maniera meno triste. E da qui però, secondo me, detto questo, fatto il preambolo patetico tra virgolette, c'è tutta la materia per fare invece un discorso più analitico e più attento, perché come dicevi tu, effettivamente questa figura, questo ragazzo che lascia la cittadina d'origine e si dirige verso la metropoli, verso la grande città dell'anonimato, ricalca secondo me un po', anzi parecchio, questa figura del lavoratore libero di cui parlava Marx. Chiaramente uno potrebbe anche dire che si potrebbe fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda Marx. Non è che Marx avesse scritto Il Capitale semplicemente per fare lo scienziato, c'era un posizionamento anche soggettivo, politico, ma anche, se vogliamo, emotivo da una certa parte. Però vabbè, Marx parla di un lavoratore che è sostanzialmente un ex contadino che viene privato della disponibilità dei terreni comuni e che si trova quindi sradicato dal proprio universo vitale e che in questa maniera diventa, tra virgolette, libero, cioè libero proprio nel senso di sganciato. Lui è, come dire, ironico quando usa questo aggettivo, e anche noi dovremmo imparare un po' che essere liberi può avere diversi aspetti, può anche significare essere separato da tutto, solo, eccetera. Quindi la differenza che io magari aggiungo a questa figura un po' ricalcata sul vecchio lavoratore libero delle origini del capitalismo è che nel caso delle persone, delle soggettività GLBTQ, questa dimensione proletaria, cioè priva di qualunque cosa, è essenzialmente una dimensione affettiva, nel senso che la sessualità, la vita affettiva sono una delle cause prime per questo sradicamento, no? Detto questo, tutti quanti partono verso una situazione in cui si dovrà ricostruire non solo i propri legami sociali, ma anche i propri legami economici, e quindi si accede a questo mondo anonimo della metropoli, che viene riconosciuta da parecchi studiosi della nascita, diciamo così, della figura del gay come essenziale per la costruzione della soggettività gay moderna. L'essere proprio sganciato dal tessuto tradizionale, dalla famiglia eteropatriarcale e via discorrendo. Quindi per questo io ho scelto di utilizzare questa canzoncina per iniziare, insomma, il mio discorso. Senti, stavi dicendo poco fa, insomma, che la dimensione proletaria di questo lavoratore è data soprattutto, insomma, diciamo, da una privazione affettiva, per fare, insomma, il parallelo col lavoratore libero marxiano. Esiste anche forse un'altra connotazione, cioè che è quella, come dire, della mancanza di rete familiare, no? Per cui l'assoluta dipendenza dal lavoro che si trova, che lo small town boy trova, e, come dire, o esiste un welfare sociale dato dal lavoro che va a fare, o non esiste nessuna rete nel momento in cui ha lasciato la famiglia nel paesello. Sì. Allora, infatti noi siamo dall'altra parte di una parabola che, quando Marx scriveva Il Capitale, non era ancora iniziata a salire. Cioè, Marx aveva una rappresentazione di questa solitudine e di questa libertà del lavoratore di fronte ai mezzi di produzione e quindi di fronte al capitale, che ancora non prevedeva nessun tipo di rete sociale di protezione. Cioè, lo Stato sociale è un fenomeno della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, non certo il fenomeno di fronte al quale si trovavano gli operai delle fabbriche di Manchester descritte da Engels e da Marx. Noi ci troviamo dall'altra parte, per certi versi, cioè in una situazione in cui quel progressivo costruirsi di una rete di protezioni politiche, perché sono state frutto di lotte politiche, lotte del movimento operaio, quella rete che noi chiamiamo welfare, con tutte le sue contraddizioni, tutte le sue storture, diciamo, socialdemocratiche, si va via via sgretolando. Quindi siamo dall'altra parte di una parabola in cui sempre di più le persone si trovano sole, sostanzialmente, quindi senza rete, di fronte al capitale. Sono passati circa due secoli, però per certi versi il cerchio si è chiuso, se vogliamo, comunque la parabola è ricominciata a ridiscendere in una situazione molto simile a quella situazione che Marx chiamava di accumulazione originaria, cioè in cui si trovano nettamente divisi e separati, uno da una parte e l'altro dall'altra, il capitale e il lavoro. Sì, sicuramente. Sì, è senz'altro così, e fra l'altro, come dire, penso che le soggettività LGBTQ si trovino proprio in asincronia totale rispetto a questo tipo di dinamica, ovvero l'emergere, diciamo, sul piano dei movimenti, se non altro delle rivendicazioni dell'autoriconoscersi come soggettività LGBTQI, avviene in un momento in cui probabilmente il welfare state, o comunque lo stato keynesiano, è all'apice, no, del suo dispiegamento. E in quel momento sono proprio le soggettività LGBTQ che, come dicevi tu, in qualche modo nascono, si autoriconoscono, ma sono proprio quelle che non hanno nessuna tipologia di nessuna forma di protezione sociale. Dall'altro, questa parabola si conclude e in qualche modo le soggettività LGBTQ fanno un po' da tipo ideale per quanto succederà successivamente, ovvero così il ritorno a questa massa informe di lavoro astratto, di lavoro senza garanzie, di lavoro totalmente sganciato a volte anche dal salario, eccetera eccetera. Esattamente, cioè è come se e qui sto parlando essenzialmente dei paesi cosiddetti industriali, insomma, di paesi occidentali prima del crollo del muro di Berlino, insomma, quindi l'area atlantica. Ecco, come se le soggettività GLBTQI in quel periodo fossero ancora non pronte per ricevere tutte le protezioni dello Stato sociale, e che sono arrivate ad essere pronte a riceverle, vedi le nostre attuali politiche di riconoscimento dei diritti delle coppie e compagnia bella, in un momento in cui paradossalmente lo Stato sociale era già in dismissione, come se fossimo arrivati tardi in un ristorante che sta per chiudere e ci viene detto: ragazzi, mi dispiace, ma qui non c'è più niente da mangiare. Questa è un po' la situazione nella quale ci siamo trovati, uno sfasamento anche temporale, dovuto tra l'altro anche ad una ragione abbastanza precisa. Cioè, per certi versi, il capitalismo che abbiamo conosciuto nel XX secolo non è il capitalismo puro. Uno, perché, come ho detto prima, c'è stato un processo politico di lotte condotte dal movimento operaio. E due, perché questo processo politico, che si è tradotto nel socialismo dei paesi dell'Est e nella socialdemocrazia liberal-democratica dei paesi occidentali, si è intrecciato con un altro compromesso, cioè che secondo me è il compromesso fra il capitalismo e quello che una volta veniva chiamato il patriarcato. Tradotto, il capitalismo avrebbe avuto nella sua essenza distruttiva dei legami sociali una carica dirompente nei confronti della famiglia tradizionale, degli assetti tradizionali e dei rapporti tradizionali fra uomini e donne, per esempio. Tuttavia, il compromesso politico fra il capitalismo e il patriarcato ha fatto sì che comunque, per esempio, l'eterosessismo rimanesse una delle cifre dominanti nelle società a capitalismo avanzato, nonostante la tendenza del capitalismo alla distruzione dei legami sociali tradizionali mettesse sotto scacco e sotto minaccia anche quei legami, come ha distrutto i legami gerarchici dovuti all'onore, per esempio, alle corporazioni o altri retaggi, diciamo, premoderni. Questo compromesso è stato anche l'elemento che ha schiacciato e ritardato l'evoluzione, se così possiamo chiamarla, delle soggettività non eterosessuali, e quindi ha fatto sì che noi arrivassimo a giochi fatti, a giochi fatti. Ecco. Fra l'altro, questo compromesso tra patriarcato e capitalismo, come l'hai definito tu, a me sembra che almeno in Italia abbia avuto una sua particolare connotazione, almeno con l'affermarsi, diciamo, del neoliberismo, e quindi, come dire, dell'utilizzo della struttura tradizionale patriarcale della società per sottrarre il welfare. Assolutamente sì, è uno dei percorsi che oggi rendono, cioè questa spiegazione che tu dai è una di quelle spiegazioni che rende leggibile una serie di dinamiche che interessano non solo i paesi occidentali. il ritorno, basti pensare a quello che succede nei paesi dell'est, in particolare in Russia, eccetera, dove ci sono queste recrudescenze del tradizionalismo, del familismo e dell'odio vero e proprio nei confronti degli omosessuali. Quindi questo tipo di, come dire, da un lato il capitalismo, scusate, avrebbe avuto uno sviluppo puro che in realtà non c'è avuto, perché c'è stata un'intromissione politica e c'è stata un'intromissione politica di altro genere, diciamo così, che però è paradossalmente anche, per questo è un compromesso, servita al capitalismo stesso. Questa, oggi ci troviamo invece in una situazione leggermente diversa, in cui da un lato le forze che rendevano necessario quel compromesso del welfare sono più deboli, e il movimento operaio, i paesi socialisti sono distrutti e non c'è nessuna capacità organizzativa tale da potersi confrontare con le pressioni del capitalismo a sfruttare al massimo e pagare al minimo le persone, fondamentalmente. Quindi questo è uno dei primi elementi. E dall'altro c'è questo recupero della dimensione tradizionale, quasi etnica, che anche in Europa sta facendo disastri e che sarà ancora più evidente dopo che ci saranno le elezioni europee dei prossimi mesi, in cui un ritorno alla dimensione del nazionale, del locale, eccetera, si accompagna con la ripresa di stili di vita rappresentati come naturali e tradizionali, in cui tra l'altro le religioni si pongono come stampella di salvataggio e come ulteriore alleato. L'abbiamo visto anche noi in Italia e lo vediamo ancora. Comunque sono cambiate un po' le cose, però se pensiamo a qualche anno fa, a quel compromesso fra cattolici, ultraliberali rappresentati da Forza Italia e Compagnia Bella, neofascisti, neoclericali, eccetera, vediamo che questo tipo di accordi politici più o meno consapevoli sono ancora uno dei terreni su cui si giocano le lotte politiche contemporanee, insomma. Senti, e dei quali le persone GLBT fanno regolarmente le spese, tra l'altro. Senz'altro è così. Sempre in questo, diciamo, inizio di questo articolo, tu fai riferimento molto a quello che è un po', chiamiamola così, fra virgolette, un po' i vari tentativi che ci sono all'interno degli studi queer, anche femministi, di analisi del rapporto fra sfruttamento economico e soggettività LGBTQI e di come effettivamente buona parte, insomma, dei tentativi di analizzare questo rapporto si situi e si dipani attraverso il concetto, no, di repressione. In realtà, come dicevi poc'anzi, effettivamente il capitalismo invece è un sistema che, oltre, sì, sicuramente, come dire, ha nella repressione uno dei suoi punti nevralgici, però dall'altro, come dicevamo poco fa, ha bisogno invece di liberare, no? Una serie di cose, quindi in qualche modo da un lato strizza l'occhio alla famiglia, però dall'altro in qualche modo tenta di distruggerla. Ha bisogno di liberare una serie di cose, ha bisogno di fare in modo che qualche cosa esca fuori, o meglio, forse, per così ti butto là una serie di cose, poi magari vedi tu come metterle insieme, o forse è proprio come dici tu prima, sulla sollecitazione, no, in particolare magari della lotta di classe, dei movimenti operai, e con tutte quindi le avanzate, no, di cambiamento anche sociale che questo porta con sé, il capitalismo deve far fronte poi di fatto a determinate sollecitazioni e quindi in qualche modo, come dire, ristrutturare, di ritrovare delle forme differenti, no, di dominio sotto la spinta, sotto le botte proprio della lotta di classe. Quindi in qualche modo c'è questa doppia dinamica, no? Da un lato così di nascita effettiva, no? All'interno della concretezza degli ultimi anni, diciamo, del capitalismo per come l'abbiamo conosciuto nel secolo scorso, dei movimenti LGBTQI, e dall'altra effettivamente in qualche modo già all'origine, ne vediamo poi adesso un po' le conseguenze, subito i tentativi di ringlobare queste dinamiche all'interno di un contesto che sia il più possibile normato, eterodiretto, dominato, eccetera eccetera. Certo, volendo prendere il discorso dall'altra parte, uno potrebbe anche dire che, vista dal punto di vista dello small town boy di cui parlavamo prima, l'accesso a una società dominata dal rapporto dallo scambio di merci, e quindi senza interferenze che non siano mediate dallo scambio di merci, è la liberazione, è voce del verbo essere, cioè rappresenta proprio l'accesso alla libertà. Cioè, quando questo ragazzetto arriva nella città e si mette a fare il lavapiatti, e comunque con i soldi con cui fa il lavapiatti raggiunge, può andare al locale, eccetera eccetera, non dipendendo più dalla propria famiglia, da quella famiglia patriarcale che magari lo ha cacciato, ecco, questo è per lui, può essere vissuta dal suo punto di vista soggettivamente come una forma di liberazione. E questo effettivamente molti studi femministi e GLBTQ negli ultimi anni, in questi recentissimi anni, penso per esempio ad alcune riflessioni fatte in ambito femminista da Nancy Fraser, proprio sulla parabola del femminismo, ma penso anche ad alcuni scritti, alcuni testi, non so se di qualche anno fa, del collettivo Tikkun, non so se avete presente alcuni testi tipo La teoria della jeune fille, oppure insomma della jeune fille, per quanto mi riguarda. Scusami? No, dicevo giusto quello, ecco, ho presente. Ecco, allora si è un po' individuata una certa adeguatezza, se vogliamo chiamarla così, non solo e non tanto dei movimenti, ma proprio delle soggettività femminili, più che femministe, e LGBTQI, a queste al capitalismo. Cioè, proprio nella misura in cui la nostra liberazione, tra virgolette, è condizionata dallo sganciarsi dalle reti del dominio tradizionale, noi diventiamo, o possiamo diventare, dei potenziali alleati del capitalismo. Anche perché questa condizione di libertà, di solitudine e di sganciamento dalle reti affettive ha degli elementi molto concreti di adeguatezza alle attuali richieste del capitale. Facciamo l'esempio della flessibilità. Un individuo che non ha stiamo immaginando un individuo idealtipico, sempre lo stesso ragazzo che arriva nella famosa metropoli, che non ha una famiglia d'origine, non ha una famiglia d'arrivo, quindi non è sposato, non ha dei figli, eccetera, è molto banalmente più flessibile dal punto di vista degli orari, può essere spostato da una sede all'altra senza particolari problemi, perché non deve fare baracche e burattini con 5 persone per andarsene. Faccio esempi un po' semplici, ma soltanto per farmi capire. Comunque ci sono degli elementi di maggiore adeguatezza. Alcuni altri poi hanno tirato fuori anche questioni un po' più legate a certi stereotipi, se vogliamo così, rivolti nei confronti delle persone GLBTQ, ovvero l'idea di un maggior investimento creativo nel proprio lavoro, quindi la capacità delle soggettività queer di trasferire più immaginazione, più creatività nel proprio lavoro e via discorrendo. Le politiche della differenza, cioè l'idea di che il capitalismo riesca a valorizzare proprio la differenza, e che il nuovo management delle nuove aziende sia più efficace, più efficiente se si struttura valorizzando, no, le diversità tra le persone, eccetera, eccetera. Tutte queste retoriche, possiamo chiamarle in questa maniera, configurano una figura queer sostanzialmente più adatta del classico lavoratore maschio eterosessuale, padre di famiglia del Novecento, dell'Ottocento, più adatta alle esigenze del capitalismo contemporaneo. Per questo io parlo di flexiquity, cioè questa nozione di flexiquity è una nozione ambivalente, nel senso che l'essere queer è da un lato qualcosa che ci rende più potenzialmente più facili da assorbire, più adeguati a determinate esigenze del capitalismo. L'interrogativo che io mi pongo è se, oltre a questa dimensione di maggiore adeguatezza, non ci possa essere nelle soggettività GLBTQI, queer e femministe, anche un elemento invece di rottura, di superamento, se vogliamo chiamarlo in questa maniera, di questa conformità e di questa adeguatezza con il capitale. Sì, anche perché in questi anni c'è stata, come dire, una produzione di immaginari duplice, in cui in entrambi i casi le soggettività LGBTQ, e in particolare prima quella gay e poi le altre, sono stati costruiti secondo immaginari assolutamente a uso e consumo del capitale, no? Da una parte quello del lavoratore flessibile, per dirlo in sintesi come lo stavi esprimendo tu adesso, e dall'altra quella del gay come consumatore totale. E quindi, esatto, una costruzione di un duplice immaginario che è assolutamente a uso e consumo del capitalismo. Aggiungo soltanto un'altra cosa, che questa retorica di cui facciamo parte poi di fatto è diventata, insomma, un punto nevralgico proprio dell'organizzazione del capitalismo, insomma, chiamiamolo così 2.0, non so come chiamarlo. Sì. Ovvero che ormai, diciamo, le dinamiche all'interno di un mercato globale in perenne movimento, in perenne cambiamento, richiedono, no, una serie di competenze, una serie di capacità che sono quelle, no, di adattarsi al cambiamento delle situazioni, di avere fra l'altro una grande capacità, no, di lavorare insieme agli altri, quindi di saperci fare quando si sta in un team di lavoro, di avere una serie di competenze proprio attitudinali al lavoro, in qualche modo di comunicazione, tutte cose che si tratta semplicemente di trasferire la propria dimensione affettiva, intesa in senso molto, molto lato, dalla vita privata alla vita lavorativa. Questa è la richiesta che ci viene fatta adesso. E da questo punto di vista le persone queer sono considerate più dotate, tra virgolette. Quindi è, come dire, lo sfruttamento della parte restante, cioè una volta sfruttato il corpo, la capacità raziocinante, si sfrutta l'affettività. Esatto. La capacità linguistica, la capacità creativa, la capacità relazionale, il fatto che le persone queer possono essere meno conflittuali, possono essere mediatrici in un contesto ovviamente di management avanzato, cioè in un contesto in cui il problema non è più l'essere visibile o non visibile come persona queer. Do per scontato che questo ragionamento vale in una dimensione post-repressiva, no? Cioè è proprio nel momento in cui il soggetto queer diventa visibile sul posto di lavoro che comincia a essere applicabile quest'altro tipo di politica e quest'altro tipo di valorizzazione, chiamiamola così, della sua differenza. Ovviamente se la persona queer rimane nascosta e non dichiarata sul luogo di lavoro, tutto questo ragionamento, certo, perde di senso. Senti, quindi, come dire, in qualche modo, magari ne parleremo poi ampiamente, insomma, nei prossimi incontri, nelle prossime settimane, quello che noi spetta in questo momento è un po' quello che poi spetta a tutte e tutti, insomma, i compagni e le compagne che in qualche modo vogliono affrontare questo tipo di dinamica e vederla non semplicemente dal punto di vista dell'analisi e della costruzione, ma anche da quello che insomma, come ci insegna un po' anche insomma, i movimenti di lotta degli anni passati, quando insomma l'intelligenza e le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici riesce in qualche modo a sottrarsi al dominio di capitale, o meglio a rivolgersi contro, proprio a partire da questo tipo di dinamiche, questo tipo di rapporti, o meglio se esistono all'interno di questo tipo di dinamiche e di rapporti dei punti nevralgici sui quali poter agire per cercare insomma di scardinare la questione, cosa insomma ci sta a cuore più di ogni altra cosa. L'interrogativo essenzialmente è questo, almeno io me lo traduco in questi termini: è possibile o no politicizzare questo tipo di dimensione, questa relazione? Perché se non è possibile politicizzarla, è chiaro che vince il lato dell'adeguamento, cioè soltanto attraverso una presa di posizione, chiamiamola soggettiva, ci può essere invece un'eventuale diversione in una direzione diversa da quella di un nuovo eventuale compromesso fra soggettività queer e capitale. Senti, per chiudere, come dire, questo primo intervento, io ti chiederei, forse anche, come dire, per lasciarci con un'immagine che a volte è più facile da comprendere, o anche per rendere più concreto a chi ci ascolta quello che stiamo ascoltando, ti volevo chiedere se tu hai incontrato nella tua vita, come dire, queste dinamiche di sfruttamento, se c'è un luogo di lavoro, un immaginario che vuoi raccontarci. Beh, io sono un caso un po' particolare, nel senso che sono andato via dalla mia città con la scusa di studiare, facendola passare così, nel senso che avevo l'università come orizzonte e non immediatamente il fatto di mettermi a lavorare. E poi in seconda battuta ci ho avuto sta sfiga o culo, non so se chiamarla così, di trovare un lavoro abbastanza tradizionale. Anche in questo però, se avremo occasione di parlare poi di tutto il discorso della precarietà e compagnia bella, avrei qualcosa da dire, insomma, perché oggi certe differenze tra lavoro cosiddetto stabile e lavoro precario sono un po' sfumate, diciamo così. Erose, sfumate, ecco, diciamo che sono... Perché per quanto mi riguarda... Per quanto mi riguardo, ho avuto una sfiga molto simile alla tua, quindi insomma l'affronterei volentieri questo discorso. Beh, però posso dirti che in una città, io ho studiato a Bologna, no? Ed era una città, è ancora Bologna, una città basata su un'economia della conoscenza per molti aspetti, cioè non è la tradizionale città industriale o post-industriale come Torino, la città nella quale vivo adesso da qualche anno. Bologna è una città in cui tu puoi vedere per strada, puoi vedere nelle vite dei tuoi amici, delle tue amiche, proprio questo tipo di continuo sfruttamento della capacità creativa e affettiva delle persone. Quanto più è alto, quanto più è intenso il tasso di affettività richiesta nel lavoro, e quindi più è immateriale fondamentalmente il lavoro che si fa, più vedi che le persone LGBTQ sono presenti. Questo non vuol dire che non ci siano transessuali operaie, ne conosco parecchi, però l'esempio di una città come Bologna, al di là poi del fatto di essere una città molto, molto gaia, eccetera, eccetera, secondo me può essere utile per illustrare un minimo quello di cui stiamo parlando. Ma anche Milano, per molti versi, è così, no? Cioè, Milano è la città di approdo di una marea ormai anche transnazionale di gay, di lesbiche, di transgender, che cercano lavoro in questi settori, che sono settori ad alta intensità affettiva, creativa e comunicativa, no? Quindi mi sembra che anche in un paese sostanzialmente retrogrado come l'Italia questa cosa funzioni abbastanza. Ma non è soltanto nella parte più alta, cioè lo stilista piuttosto che i call center stessi. Io ho fatto esperienza di lavoro nei call center e ricordo che dove lavoravo c'era una percentuale di persone gay e lesbiche più alta diciamo della percentuale di persone gay e lesbiche nella popolazione più generale, se vogliamo dirla così. C'erano più gay e lesbiche nel call center dove lavoravo io che in certi posti che frequentavo quando uscivo, insomma. Sì, un po' come all'IKEA, insomma, un contesto. Scusate. Figurati, dai, va bene, dai, io per stasera chiuderei qua, insomma, di carne al fuoco ne abbiamo messa tanta, insomma, speriamo di riuscire così a parlarne per bene magari nella prossima settimana, andando ad analizzare un po' più nello specifico questo scritto, appunto, dal quale siamo partiti, lavoro, affetti e flexiquirity per la critica dell'economia politica degli affetti queer. Quindi per adesso, dai, ci salutiamo qua e ci sentiamo sicuramente giovedì prossimo, no? Senti, ma chi lo volesse leggere lo trova da qualche parte, a parte che glielo possiamo mandare noi? Dimmi, non ho capito. No, il documento, dico, se qualcuno che ci ascolta lo volesse leggere. Sì. Lo può trovare in qualche luogo su internet o allora, su... dovrebbe essere pubblicato fra un mesetto o due in un libro che si dovrebbe intitolare L'amore ai tempi dello tsunami, che raccoglie diversi scritti proprio sulla dimensione affettiva / lavorativa. Okay. E se però qualcuno volesse una copia, posso passargliela io se vuole scrivermi o mandarmi un messaggio in qualche maniera. Al momento però non credo che sia visibile in internet da qualche parte. E quindi facciamo così: chi lo vuole leggere scrivi a noi e noi lo giriamo a te. Lo giriamo, certo. Volentieri. Va bene, intanto grazie per questa sera, insomma, risentirci presto e grazie a voi. Buonasera. Scusate, ma oggi ho anche un po' di tosse. Non ti preoccupare. Vabbè, ha una voce un po' roca, ma assolutamente bella. Radiofonica, sì. Va bene. Grazie ancora, ciao, Christian. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Un bacio, ciao. E quando sono le 19:15, quindi la chiudiamo qua con Profondo Rosa di questa sera. Fra una quindicina di minuti il GR delle 19:30 di Radio Onda Rossa. Ancora una buona serata a tutte e a tutti. E niente, noi ci risentiamo sicuramente giovedì prossimo, sempre alle 18:30, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Da ora in avanti, sempre puntuali, tutti giovedì. Ciao. Dai, ci credo. mio.